24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:30 minuti, eccoci cari ascoltatori in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Il sondaggio di oggi che potete già votare su radio24.it, nell'home page bianco o nero parliamo di codice della strada. C'è stato 3 giorni fa un episodio di cronaca incredibile con una persona che guidando in stato di ubriachezza ha ucciso 3 persone, una famiglia, marito, moglie e bambino di 2 anni, è già uscito dal carcere, si trova agli arresti domiciliari, ha suscitato molto scalpore, ma un po' sotto silenzio, sotto traccia, come al solito in Italia, no? Queste cose, si fa scalpore per 2 giorni, però poi ci si occupa di cose, di altre cose sui giornali. Noi vi chiediamo, secondo voi vanno aumentate le pene, servono pene più dure per chi guida in maniera irresponsabile, sotto l'effetto dell'alcol, ma anche in altri modi irresponsabili? C'è il codice della strada che è in discussione in questi momenti, in questi giorni al Senato. E allora che ne pensate? Radio24.it. Pene più dure per chi guida in modo irresponsabile, oppure va bene così, ci sono già pene dure, magari non vengono applicate. Ne parleremo poi alle 8:30. E ora i giornali. In primo piano. Mercoledì 28 aprile è la Grecia che fa un po' tremare, fa tenere tutti col fiato sospeso. Cosa sta succedendo in Grecia? I titoli greci sono spazzatura, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, il declassamento di Standard & Poor's, che declassa anche il Portogallo. Il Corriere della Sera, Grecia bocciata, paura di contagio. Grecia sull'abisso, paura in Europa anche per Repubblica. Mentre la Stampa, Grecia giù euro e borse. Per il Messaggero, Grecia bocciata, borse a picco. Queste sono le aperture dedicate a questo tema, c'è chi sceglie la politica, vedremo anche altre aperture interessanti, come vi preannuncio solo questa, c'è Dacci oggi l'attacco quotidiano a Fini da parte del giornale, ma sentite oggi qual è l'attacco di Feltri a Fini, paga mamma Rai 1 milione alla suocera di Fini, vedremo più avanti di che si tratta. Allora, la Grecia. Detto che oggi Oscar Giannino torna ad approfondire la questione alle 9 perché il tema davvero è molto delicato. Ieri Standard & Poor's che ha declassato di 3 livelli in un sol colpo il debito pubblico della Grecia, l'ha ridotto al rango di junk bond, cioè titoli spazzatura. Ovviamente le borse hanno perso tantissimo, l'euro è sceso al minimo sul dollaro. Il ministro delle finanze ellenico ha avvertito che il paese non può più rivolgersi al mercato, come dire ci servono i soldi, ci servono gli aiuti e subito. Pagina 2, 3, 5 del Sole 24 Ore, Europa un martedì di paura, lo leggo da pagina 3, c'è Moria Longo che scrive: i mercati finanziari questa volta temono davvero, solo un miracolo potrà salvare la Grecia entro il 19 maggio, perché entro questa data Atene dovrà rimborsare titoli di Stato per circa 9 miliardi di euro, e dunque c'è il fantasma di un'imminente ristrutturazione del debito che aleggia sulle quotazioni di tutti i mercati. E adesso che succede? Adesso trema anche il Portogallo, come scrive a pagina 2 del Sole 24 Ore Gianluca di Don Francesco. Vacilla sempre di più la seconda tessera del domino del debito sovrano. Da ieri tutto il peso della crisi greca si è definitivamente rovesciato addosso al Portogallo, perché Standard & Poor's, che ha tagliato, ha messo diciamo a titolo spazzatura i titoli di Atene, a rango spazzatura, ha anche tagliato di 2 gradi il rating dei suoi titoli di Stato per quel che riguarda Lisbona. E allora c'è grande paura, tutti i giornali se ne occupano, c'è anche un commento di Andrea Romano che analizza il rigore dei tedeschi, no? Accusati di egoismo, quelli che in Europa più si sono opposti e si stanno opponendo all'aiuto per la Grecia. Altro che egoisti, oggi i tedeschi si scoprono normali, scrive Andrea Romano. I tedeschi scontano 2 traumi. Il primo è quello del passaggio dalla moneta nazionale all'euro. Perché, scrive Romano, la perdita di sovranità monetaria che ha permesso all'Europa l'adozione della moneta unica era il perno, la forza del Deutschmark era il perno della rinascita della Germania occidentale. Quindi questo è il primo trauma. Il secondo trauma è il peso dell'interesse nazionale che la Germania ha pienamente recuperato da almeno un decennio, liberandosi dei sensi di colpa che ne avevano imbrigliato l'iniziativa internazionale nella seconda metà del Novecento, ovviamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il nazismo. E allora, alla fine degli anni 90, quando il governo di Schröder e Fischer decise di farsi parte attiva nella gestione dei conflitti balcanici, si disse che il ritorno dei soldati di Berlino fuori dai confini tedeschi segnalava la ritrovata consapevolezza della Germania dei propri interessi nazionali. Non si trattò di una previsione sbagliata, cioè la Germania che ha un'identità ritrovata e che non ha più timore e non ha più vergogna a difenderla. Questo scrive Andrea Romano. Quindi non è egoismo, ma la Germania che si riscopre una nazione che ha voglia di difendere i propri valori anche di identità nazionale. Dal punto di vista, tutti guardano ovviamente la Grecia. Anch'io ieri mi chiedevo, ne parlavo con mia moglie, chissà come sarà economico quest'anno andare in vacanza in Grecia. In realtà, a pagina 5 del Corriere della Sera, Giuliana Ferraino va a analizzare un po' il mercato immobiliare degli arcipelaghi, perché è inutile insomma negarlo, la Grecia è una delle mete più gettonate per l'estate. La crisi greca per ora non tocca le case per le vacanze sulle isole elleniche, nel senso che i prezzi degli immobili sul mare restano alti. Fanno sapere dalle società di consulenza aziendale per l'export con sede nel Peloponneso, in questo caso per esempio Vassilios Savas. Cioè c'è stato un leggero calo del prezzo degli immobili, ma è piccolo, intorno al 5%. Rimangono le isole più ricercate, le Cicladi. A Paros, per esempio, una villetta di 100 metri quadri costa sui 400-500 mila euro. Vabbè, questo è per l'acquisto, ma chissà, magari diminuiranno invece i costi per quel che riguarda gli affitti. Insomma, chi va lì per una settimana, due settimane, tre settimane, chissà come questo inciderà anche su questo aspetto. Chi è molto duro su Repubblica, per chiudere questo tema, tanto poi Oscar Giannino ne parlerà alle 9, è Jean-Paul Fitoussi. Non è la prima volta, ma oggi fa un'intervista molto dura a pagina 7 di Repubblica, economista francese che insegna anche a Roma, la LUIS, anche a lungo consulente di istituzioni e banche europee. Se la prende tantissimo con chi? Con Standard & Poor's, con Moody's, cioè le agenzie di rating. Sentite che dice, quelle che hanno declassato a spazzatura e alcuni, di alcuni punti un paio la situazione in Portogallo. Allora, dice Fitoussi, è ormai riconosciuto che le due agenzie, vale a dire Moody's e Standard & Poor's, portano sulle loro spalle la responsabilità del collasso della finanza che è stato l'inizio e la causa di tutta la crisi. Non mi pare una responsabilità da poco, dovrebbero rintanarsi in un angolo e chiedere perdono, semmai c'è da chiedersi perché ancora abbiano tanto ascolto in tutto il mondo e gli operatori continuino a credere loro. E secondo me sbagliano. Guardi, tutti hanno le loro debolezze, le ha la Grecia, l'Irlanda, perfino la Germania. Le agenzie di rating dovevano garantire almeno un po' di speranze al governo di Atene. La procedura più corretta sarebbe stata questa, dal primo momento della crisi greca, riaffermare il concetto che l'Europa è una e poi prestare immediatamente i soldi a tassi agevolati, come voleva Sarkozy. Tranne la Germania, ecco qui Fitoussi che attacca la Germania. La Germania invece ha pensato bene di cogliere l'occasione per riaffermare la sua sovranità continentale e dare a tutti una lezione da non dimenticare. Dunque Fitoussi che la vede così. L'altro tema economico che trovate sul Sole 24 Ore, prendendo spunto dall'INPS. L'INPS ha chiuso il 2009 con 7,9 miliardi di avanzo, ne scrive bene Davide Colomba, pagina 8. Questo mi dà spunto per andare al Giornale, dove c'è in prima pagina un'inchiesta sui falsi invalidi, un grande classico dei giornali diretti da Vittorio Feltri. Invalidi, uno su cinque è un truffatore. Truffa invalidità, ogni 5 pensioni almeno una è falsa. E Gabriele Villa, pagina 3, che ne parla, c'è anche un'intervista al presidente dell'INPS Mastrapasqua. Vabbè, Gabriele Villa dice, da dove cominciamo? Ma sì, cominciamo dal solito, dalla campagna, Arzano, dove in 20, sì avete letto bene, in 20, marito, moglie, 3 figlie, 2 nuore, il genero, 2 zie, la madre, i 2 consuoceri, 4 cugini, 2 cognate, la cognata della figlia, tutti falsi invalidi, una vera e propria ditta della consanguineità. Poi si rispolvera l'intero clan o quartiere di falsi ciechi a Napoli. A Siracusa un dottore suggeriva ai colleghi la percentuale di disabilità da attestare, insomma i falsi invalidi, tra l'altro con un'inchiesta che continua, che finisce con un continua, come dire, nei prossimi giorni ne racconteremo altre. Insomma, le truffe dei falsi invalidi. Bisogna affrontare la politica. Ogni giorno è così, anche in questi giorni. Allora, ci sono le cose un po' di retroguardia, un po' noiose, però ci sono anche degli aspetti molto interessanti che sono andato a pizzicare qua e là dai giornali. Allora, quelle noiose sono il dibattito adesso che fa Fini ieri è andato a Ballarò, come preannunciato, ha detto la cosa più epocale che rimarrà è: non mi piace l'inno, meno male che Silvio c'è. Non è il momento degli inni, ha detto, non è che è perché c'è Silvio, cioè chiunque fosse, ma non mi piacciono gli inni. Poi c'è Italo Bocchino, che è quello che secondo il retroscena di cui Berlusconi vorrebbe la testa assolutamente. Allora Bocchino, che è vice capogruppo del PDL alla Camera, ha detto: io mi dimetto, basta che si dimetta anche il presidente del gruppo, cioè Cicchitto, e poi quando siamo dimessi tutti che faccio? Mi candido io alla presidenza. C'è chi l'ha definita una buffonata, una pagliacciata, qualcuno anche vicino a lui come Roberto Menia, uno vicino a Fini, che dice che è una pagliacciata, basta pagliacciate, se Bocchino fa questo, si dimettono tutti e poi lui si candida alla presidenza del gruppo, mi candido anch'io contro di lui. Insomma, questa è la politica al momento. Però, appunto, le segnalazioni curiose. Allora, io ho trovato questo. Parto dal Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, in prima pagina, Schifani ci chiede 720.000 euro, ma teme un processo pubblico. Che succede? Il Fatto da alcuni tempi ha iniziato a scavare nella vita anche passata del presidente del Senato, Renato Schifani, e allora ieri è arrivata, fanno sapere a pagina 2 e 3 del Fatto, Peter Gomez e Marco Lillo, la richiesta danni, una querela civile, una richiesta di risarcimento da 720.000 euro, 54 pagine di citazione civile notificate ieri al Fatto dal presidente del Senato Renato Schifani. Scrivono Gomez e Lillo: ecco spiegato bene quale considerazione abbiano della libertà di stampa molti esponenti della nostra classe dirigente. Noi, per la verità, prima delle inchieste lo avevamo cercato, gli avevamo chiesto di replicare. Insomma, riepiloga tutta l'inchiesta e c'è anche un articolo a pagina 3 di Oreste Flammini Minuto, la tagliola sulle notizie, lo spazio bianco delle rettifiche. Insomma, Schifani chiede 720.000 euro di risarcimento danni in sede civile al Fatto, ma è questo appunto in sede civile ma non penale, perché scrivono al Fatto teme un dibattimento penale su questo. La seconda notizia interessante, ve l'avevo anticipata nel titolo del giornale, è questo: 1 milione alla suocera di Fini. Questo è l'attacco quotidiano che oggi Feltri fa a Fini e mette in prima pagina Fini con la compagna Elisabetta Tugliani. Di che si tratta? Si tratta di una questione legata alla RAI. Ne scrive Laura Rio a pagina 7. La suocera di Fini fa milioni con gli appalti RAI. Si tratta del programma Festa Italiana, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, dove nella rete diretta da Mauro Mazza, che è definito un finiano doc. Lo spazio all'interno della trasmissione si chiama Per Capirti, una sorta di talk dedicato al rapporto tra genitori e figli, e viene appaltato, insomma, 8.000 euro a puntata per 183 puntate, a chi? A una società che è riconducibile alla mamma di Elisabetta Tugliani, che è la compagna di Fini, quindi la cosiddetta suocera, ovviamente suocera tra virgolette. Ieri, scrive il giornale, il sito d'Agospia ha approfondito l'argomento sciorinando nei dettagli la matassa intricata dei rapporti tra la società di produzione e la famiglia Tugliani. E allora si è venuto a scoprire, insomma, che tutto è riconducibile come produzione di trasmissione alla Absolute Television Media, detenuta da Francesca Frau, Chi è questa signora sconosciuta? È la mamma di Elisabetta Tugliani e Giancarlo Tugliani. Dunque, è la suocera, virgolettata ovviamente perché non sono sposati, di Fini. Allora, questo è l'attacco. La suocera di Fini fa milioni con gli appalti Rai. Insomma, come attacco non c'è male oggi in prima pagina del giornale, ma ci sono altre chicche. Per esempio, ve la riservo per dopo il traffico. Vi ricordate il gran casino delle liste? Le liste bloccate, bocciate in Regione Lazio. Poi ha vinto il centrodestra e dunque la lista del PDL non è stata ammessa, ma tutto risolto? Tutto risolto un cavolo. Adesso c'è chi chiede si vada nuovamente a votare. In primo piano. Partito dell'amore nel Lazio finisce assediate e ricorsi. È la vicenda delle liste bocciate che poi uno dice si è risolto, il PDL ha vinto e quindi il PDL che era stato con la lista bocciata nella provincia di Roma non avrà nulla da dire. Eh no! Sentite qui che scrive Tommaso Labate a pagina 3 del Riformista. Le cose che dico a lei le sa già anche Berlusconi. A lui ho scritto, a Fini, alla Polverini, hanno ricevuto una mia lettera. Anzi, ora sono le 17, è l'orario dell'intervista. Tra un'ora e mezza mi aspetta l'avvocato. Io sospettavo sin dall'inizio che mi volevano fregare. Avevo presentato così un mio ricorso personale contro l'esclusione della lista del PDL a Roma. L'udienza è fissata il 6 maggio. Insomma, chi è che parla? Uno del PD incavolato? Ebbene no. Si chiama Fabio Desideri, non è un esponente incavolato del PD, ma è uno del PDL. È un mister preferenze del PDL, già sindaco di Marino, uno di quelli che dice sarei stato eletto di sicuro se non fosse stato per la lista venuta a mancare all'improvviso e che ora dice adesso voglio io che si rivoti perché ho subito un danno personale e come me sono tanti. Io lo sapevo che ci avrebbero fregati, dice ancora. Avevo presentato un mio ricorso dal coordinatore San Marco ai vertici del partito del Lazio, Piso, Pallone, quelli che hanno combinato il casino, che invece di essere cacciati dal partito a calcio hanno piazzato i loro uomini in giunta regionale, lasciato a casa gente che rappresenta almeno 200.000 voti totali. Insomma, è la rivolta dei non eletti del PDL. Che ora alcuni di loro, come questo Desideri, dice io in segreto avevo presentato un mio ricorso personale e si discuterà quello e voglio che si annulli il voto alle regionali del Lazio e che si torni a votare. Ah, ci aiuti qualcuno per questa nuova pagina che potrebbe riaprirsi, vedremo. Intanto il PD si interroga se si può dialogare con Fini. Oggi, dopo ieri Deborah Serracchiani, oggi è Matteo Renzi, sindaco di Firenze, che dice no a Fini. Dobbiamo uscire dalla sudditanza psicologica. Fini è un interlocutore assolutamente inaffidabile. Fa un'intervista a Repubblica, Matteo Renzi. Doveva fare la rivoluzione, invece fa un seminario. Doveva fare una corrente, farà uno spiffero. Doveva portare Berlusconi alla realtà, lo porta alla lealtà. Per 17 anni ha fatto chip e chop col Cavaliere. Non mi ricordo bene le sue gitarelle in Europa con Le Pen. Ma la vogliamo smettere di farci del male? Insomma, Renzi dice né inciucio né dialogo, lasciamo perdere l'inaffidabile Fini. Vabbè, lasciamo perdere e lasciamo anche la politica. Segnalo solo come chicca, così è proprio spot. Oggi c'è il Masi, il direttore generale della RAI, che presenta al Consiglio di amministrazione il piano. Si parla, secondo Libero, di conti peggiorati e di RAI che potrebbe mandare a casa la RAI, 1200 dipendenti, a pagina 12 di Libero. Invece a pagina 12 del giornale si scopre che colpo di Minoli, altro che pensione, sarà un consulente della RAI da 2 milioni di euro, chissà se confermata. 2 milioni di euro a Minoli come esterno, come consulenza per un programma sui 150 anni dell'Unità d'Italia. Così le metto a fianco, 1200 dipendenti RAI forse a casa, 2 milioni a Minoli. Allora, Reggio Calabria. Reggio Calabria, avete sentito la nostra copertina del GR, gli applausi a Giovanni Tegano, latitante dal 93 arrestato, invece che gli applausi alla polizia. Alcuni, pochi, ma certo, un centinaio, 200, chissà quanti a Reggio Calabria sono andati ad applaudire il boss arrestato. Attilio Bolzoni in prima pagina di Repubblica ne scrive molto bene. Quell'applauso al boss, eroi per i bambini, c'era anche, e viene cerchiato nella foto, una persona che si è messo in spalla un bambino che avrà dalla foto 2 anni, 3 anni, non di più, per acclamare il boss. È come un santo, per la sua gente è un giusto, un martire. Se non si conosce cosa rappresenta un boss per il suo popolo, non si potrà capire mai perché l'hanno aspettato per toccarlo, vederlo, applaudirlo, per gridare a tutti: avete preso un uomo di pace. Una strada di Reggio è diventata il suo palcoscenico, scrive Bolzoni. Il teatro privato di Giovanni Tegano, tra la questura e gli elegantissimi negozi della città più mafiosa d'Italia. Cugini, nipoti, figli, figliocci, soliti irriducibili fan si sono radunati là sotto per rendere atto di ossequio al loro patriarca dopo quasi 20 anni di latitanza e manifestare il loro amore, la loro devozione. C'è anche un padre che mette un bambino in spalla e gli dice: eccolo, eccolo, Carmine, venerato come una statua in processione nei suoi ultimi momenti di libertà. È davvero inquietante questa immagine, tutti ne parlano. Il procuratore Grasso fa un'intervista a pagina 7 della Stampa, il procuratore Pietro Grasso, a Francesco Lalicata, dice: ci vuole pazienza, il tessuto calabrese è ancora ostico, io ricordo che anche in Sicilia era così, ci vuole tempo e pazienza, ma poi l'azione antimafia costante, efficace, poi porterà anche quella società civile calabrese a fare quel salto di qualità e a passare dalla nostra parte. Ma certo c'è lo stupore di molti che si sono dati da fare per arrestarlo, che insomma, che si vedono ora applaudire il boss invece di essere applauditi loro uomini delle forze dell'ordine. La segnalazione conclusiva, tutto scienze, pagina 23 della Stampa. Volete sapere chi è il cane più intelligente? È il Border Collie. Un cane che riesce ad avere delle performance logiche degne di nota, ricordare 250 nomi di oggetti. Questo lo dice Stanley Coren, che è uno dei più grandi etologi. Il secondo più intelligente è il barboncino, poi il pastore tedesco, poi il golden retriever, poi il Doberman Pinscher. E poi ci sono i peggiori, il levriero russo Borzoi, il bulldog, il basenji e, ultimo degli ultimi, il levriero afghano. Sarà infelice mia figlia, che saluta sempre un levriero afghano che troviamo vicino a casa. Bubi si chiama. Vabbè, il levriero afghano è ultimo, mi spiace per lui. Allora, ci fermiamo, votate il sondaggio. Vorreste pene più inasprite nei confronti di chi guida in maniera imprudente? Radio24.it. Le 8:18 minuti, ritorniamo in diretta. Eccoci qui, 24 mattino, al momento di Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci qua, Deborah. Sì, buongiorno. In realtà buongiorno. Non è il mio momento, ma è il tuo momento. Signori e signori, abbiamo un grande annuncio. Che fai le campane? Sei impazzita. Signori, sono felice e contenta di annunciare alla popolazione mondiale che ieri Alessandro Milan ha consegnato la dichiarazione dei redditi all'azienda. 7:30. Ah, sì, è vero. 7:30 è custodito in amministrazione. Anche quest'anno il è rito finita. Erano presenti molti testimoni, tutti possono documentare e certificare che il signor Milan ha espletato la formalità annuale. Io lo vivo annuale. Come un incubo, tu non lo sai. Ma non perché. Ma è una dichiarazione dei redditi di Paperino, ci sono due documenti da mettere dentro. Quanta preoccupazione avrai? Però ti chiedo. Come ti sei comportato, se ti sei comportato in qualche maniera con il 5 per 1000? Hai devoluto? Bene, certo che ho devoluto. Hai devoluto? Sì, sì. Con che criterio hai scelto, visto che non esisteva nessuna lista di enti no profit ufficiale da nessuna parte? Ho chiesto. Hai chiesto? Mi sono informato. Alla Prosesto hai devoluto il denaro. Siamo falliti, all'associazione, alla squadra di calcio, di calcetto, dove giochi con Dario Ceccarelli. Neanche. Una più grande, così sei andato più sicuro. Insomma, abbiamo cominciato, come sempre, scherzando la nostra trasmissione per parlare per la verità di un tema molto serio. Ritorniamo sul tema del 5 per 1000, ci torniamo perché abbiamo qualche precisazione in più rispetto alle informazioni che abbiamo dato qualche settimana fa. Informazioni che servono ovviamente a tutte le persone che, come Alessandro, stanno ultimando la compilazione del 7:30 e consegneranno questo documento entro dopodomani al sostituto d'imposta, se decidono appunto di darlo all'azienda. E invece i contribuenti hanno tempo fino alla fine di maggio se intendono avvalersi dell'assistenza di un centro di assistenza fiscale o di un commercialista. E allora, quali sono le novità? La novità è che settimana scorsa il Consiglio dei Ministri ha lanciato la procedura di formazione dell'elenco di enti no profit che potranno ricevere questo contributo. Ma allora, se questo elenco non c'era, come si sono orientati fino adesso i contribuenti? È un tema che si pone ogni anno. Allora noi stamattina ci ritorniamo ormai con un affezionato amico di Soldi e Dintorni, Gianpaolo Concari, componente del Comitato Tecnico dell'Istituto Italiano della Donazione. Concari, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Tra l'altro, dicendo solamente così per correttezza, perché mi piace ricordarlo che oltre ad essere un esponente di questa organizzazione, lei è anche una persona molto attiva nel mondo del volontariato, perché è un volontario di Emergency, per cui doppiamente conosce bene questo settore. Mi piaceva raccontarlo, anche se so che lei è molto modesto, insomma non ama raccontarlo ma fare. Comunque, di nuovo buongiorno. È importante questa novità del Consiglio dei Ministri? Direi di sì, perché altrimenti si rischiava di fare un appuntamento al buio, come dicevamo prima nella prediretta. In effetti i tempi adesso sono molto stretti, perché l'elenco definitivo, proprio definitivo, quello il definitivo insomma, verrà pubblicato entro il 25 maggio 2010, quindi praticamente a 6 giorni dalla chiusura dei giochi per il modello 730. Ovviamente il modello unico è ancora, ha le scadenze più lunghe, però insomma per i 730 sono un pochino stretti. E infatti, allora volevo dare appunto proprio la precisazione relativa a queste scadenze che sono state fissate, comunicate con una comunicazione per l'appunto dall'Agenzia delle Entrate dei giorni scorsi, e le tappe sarebbero queste: cioè fino al 7 maggio gli enti interessati possono inoltrare la domanda per avere diritto a questo beneficio all'Agenzia delle Entrate, poi dal 7 al 14 maggio l'Agenzia delle Entrate elabora tutte le richieste, solo una settimana di tempo per valutare se gli enti che ne fanno richiesta hanno i requisiti per l'erogazione appunto del 5 per 1000, fino al 20 maggio poi, quindi dal 14, verrà pubblicato un primo elenco che mi pare Concari sarà consultabile da tutti gli ammessi per verificare eventuali errori di trascrizione. Esattamente, è un elenco diciamo così provvisorio dove i vari soggetti, le associazioni, le fondazioni così che vorranno partecipare alla ripartizione del 5 per 1000 potranno verificare se per caso l'anagrafe tributaria presenta degli errori rispetto a quello dichiarato, ai dati dichiarati, per cui c'è giusto il tempo per presentare un'ulteriore dichiarazione per dire: non mi chiamo Giulio Rossi associazione, ma mi chiamo Giulio Verdi, Rosso, ecco. Per esempio, può essere Rosso, anche un errore banale, però insomma esatto. Vanno fatte tutte le compilazioni corrette. Dal 20 al 25 maggio poi si pubblicherà l'elenco confermato. A questo punto solo dal 25 avremo la certezza assoluta di tutti gli enti approvati, e poi fino a fine maggio si potranno inserire in dichiarazione dei redditi i codici fiscali degli enti soggetti alla donazione. Benissimo, tutto questo è tutto molto bello, ma se qualcuno si vuole sbrigare a fare la dichiarazione dei redditi, può già inserire qualche codice fiscale con come fa ad orientarsi? Allora, innanzitutto può già farlo adesso indicando appunto un codice fiscale di un'associazione, di un ente che comunque sa già che difficilmente sarà esclusa da questo elenco. Ecco. Esattamente, quindi organizzazioni che sono presenti da tempo in questa ripartizione, diciamo, sicuramente si ripresenteranno la domanda di ammissione, quindi è possibile già farlo. Alcuni problemi potrebbero esserci, l'anno scorso ci sono stati, ma poi so che sono stati risolti in qualche modo, quest'anno non ho avuto ancora notizia, quindi il problema credo che sia definitivamente risolto. Per quanto riguarda i problemi, appunto, potevano esserci con alcuni CAF i cui software vanno a cercare l'esistenza di un elenco preso appunto dall'anagrafe dell'Agenzia delle Entrate. Se questo elenco, come attualmente è inesistente, il programma, il software che gestisce il modello 730 potrebbe dare qualche problema di errore, potrebbe segnalare errore. Quindi il tema è essere molto attenti, aspettare proprio all'ultimo momento. Qualora si volesse sostenere l'associazione dilettantistica del proprio paese che ha inoltrato domanda, bisogna aspettare che vengano espletate tutte queste procedure e fare in modo di avere proprio verificato completamente che questa associazione abbia il diritto a questo tributo e quindi individuare correttamente il proprio codice fiscale ed inserirlo in dichiarazione dei redditi. Quindi in caso contrario abbiamo, come dire, una procedura più semplice, affidiamoci alle associazioni di volontariato, agli enti di ricerca, agli istituti no profit che abbastanza sicuramente potranno avere il diritto ad essere inseriti in questa lista. Concari, quanti contributi secondo lei arriveranno quest'anno dagli italiani verso questo mondo che è molto variegato e che aspetta, è molto assetato di queste risorse? Credo che il 5 per 1000 sia misura che dà veramente molto ossigeno al settore del non profit prima di tutto ed è una cosa che piace sempre di più ai contribuenti italiani. Molto c'è da fare ancora per i contribuenti che compilano il modello unico, perché quelli più affezionati sono quelli invece che firmano per, cioè compilano il modello 730. Quello più semplice. Sì, forse anche più semplice così. Comunque è una veramente è uno strumento di raccolta fondi, di fundraising che è sempre più però insomma stimare quante cifre, una cifra esatta è abbastanza difficile. Ricordo solo che l'ultima ufficiale che abbiamo è quella del 2008, sono arrivati nelle casse di queste organizzazioni circa 415 milioni ripartiti poi tra l'altro con un determinato criterio, adesso non abbiamo il tempo di spiegarlo, il tema è che poi non tutte le risorse, sì mi dica Concari, voleva concludere. Comunque ci sono, ogni dichiarazione mediamente comporta un'erogazione di tra i 25 e i 28 euro per ogni contribuente, che per il contribuente non costa nulla, perché in sostanza sono già le sue tasse che vengono destinate, quindi lui comunque le dovrebbe pagare queste tasse. Proprio per il fatto che il contribuente non deve spendere nulla, piace sempre di più questa cosa e allora firma molto più benissimo. Piacevolmente. Allora, noi abbiamo terminato, io la ringrazio per essere stato con noi e vedremo se ci sarà bisogno di dare ulteriori informazioni da qui alla fine del mese. Intanto buona giornata Concari, a presto. Grazie a lei, arrivederci a voi tutti, salve. Noi ci risentiamo alle 12 a Salvadanaio. Sì, Alessandro. Sì. No, Gianluca da Roma dice: come faccio a devolvere il 5 per 1000 quando ho il CUD? Ma ci sono arrivato anch'io, Gianluca. Ci sono i moduli dentro, c'è un modulo dentro, ci scriva che glielo indichiamo. La legga il CUD, non la tenga lì per fare un po', esatto, Gianluca, sì. Per fare il Milan della situazione, se ci sono arrivato io, Gianluca, ci arriverà anche lei. Allora, Salvadanaio, guarda, oggi volevamo parlare di credito al consumo. In realtà, con quello che è successo ieri in borsa sui titoli di Stato, oggi ritorniamo invece sui mercati per orientare un po' i risparmiatori verso gli strumenti di investimento che in questo periodo sono un po' ballerini, titoli di Stato in particolar modo. E allora, alle 8:33 minuti, anzi 34, siamo pronti per il nostro sondaggio bianco o nero su radio24.it. Dovete votare, vi chiediamo: secondo voi servono pene più dure per chi guida in maniera irresponsabile? Proprio in questi giorni si sta discutendo il codice della strada, le novità al Senato. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Prendiamo spunto da un ultimo fatto di cronaca che ha avuto, secondo me, colpevolmente poco spazio sui giornali, o meglio, il giorno dopo e poi basta. La vicenda avvenuta a Desenzano, un trentenne alla guida, era con un tasso alcolico in sangue tre volte quello consentito, ha provocato un incidente, sono morti nell'incidente un padre, una madre, insomma marito e moglie e un bambino di 18 mesi. A questa persona tra l'altro era già stata ritirata due volte la patente, una volta per 15 giorni, una volta nel 2003, una volta per 6 mesi. Al momento è agli arresti domiciliari concessi dal giudice. Ne voglio salutare l'avvocato Francesco Delaini. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Come lei può immaginare, detta così fa molto scalpore la notizia. Non tanto perché bisogna essere un paese giustizialista, cosa che fortunatamente non siamo. E però, insomma, due volte ritirata la patente, ha provocato un incidente con tasso alcolemico tre volte il consentito, tre morti, una famiglia distrutta, e sì, agli arresti domiciliari ma fuori dal carcere. Lei che dice? Dal suo punto di vista tutto bene, ovviamente. Ma io dico che il nostro sistema processuale, a livello costituzionale, a livello di codice di procedura, prevede che un soggetto può rimanere in carcere prima che la sentenza diventi definitiva e che la pena quindi sia definitiva, se vi sono uno di questi tre presupposti: il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato. Qui nel caso di specie sicuramente il pericolo di fuga non c'è, perché il ragazzo si è fermato, naturalmente ha chiamato la polizia, è rimasto oltre un modo scioccato per la vicenda ed è si è messo a disposizione degli inquirenti. L'inquinamento delle prove non esiste, perché sì, la polizia stradale ha fatto tutte le indagini che doveva fare. C'era il problema della reiterazione possibile del reato, che a mio modo desto avviso è impossibile da ipotizzare, perché nel momento stesso in cui gli viene revocata la patente o gli viene sospesa comunque la patente, come è stato fatto sin da subito, è impossibile pensare che lui si rimetta alla guida. Gli è già successo però del ritiro della patente temporaneamente due volte, no? Sì, in passato. Una volta appena era stata cambiata da 0,80 a 0,50 il limite, il giorno dopo mi pare, e per 0,57, e una volta a Pizzighettone, credo in provincia di Cremona, ma non so quanto fosse il tasso alcolimetrico. Capisce però, avvocato, insomma, per carità, lei non era il suo avvocato allora, immagino, ma o non lo so se era l'avvocato anche allora. Però cioè è la terza volta, in questa terza volta sono morte tre persone. Sì, ma qui lui, il giudice, ha ritenuto di metterlo agli arresti perché ha detto c'è il pericolo possibile della reiterazione, cioè che guidi senza patente. Per il momento intanto lo teniamo controllato e lo mandiamo agli arresti, perché il carcere, sempre come dice il nostro sistema processuale, è l'ultima razza, l'estrema razza, l'ultima spiaggia, cioè si va in carcere quando tutte le altre forme di tutela non sono sufficienti. Qui il giudice, secondo me giustamente, ha ritenuto che già tenerlo agli arresti domiciliari è una forma sufficiente per controllarlo e per il momento non lasciarlo in libertà. Allora, avvocato, rimanga con noi, la stanno ascoltando, le voglio salutare, voglio immaginare anche un po' contrariati, magari un po' arrabbiati. Giuseppa Cassaniti Mastroieni, presiede l'Associazione Italiana Vittime della Strada, buongiorno. Buongiorno. E così come saluto Giordano Biserni, Associazione Amici della Polizia Stradale, buongiorno Biserni, ben ritrovato. Insomma. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, signora Giuseppa, lei ha sentito l'avvocato Delaini che fa il suo lavoro, che dice insomma siamo un è un giudice che ha deciso, gli ha dato gli arresti domiciliari, non c'è il rischio comunque per il momento che riprenda la macchina, ritirata la patente. Dal suo punto di vista servono pene più dure, ci vuole un inasprimento delle pene, se no in Italia non si riesce mai a colpire questi tipi di reati? Cioè il giudice può decidere, prende delle decisioni, ma noi cittadini abbiamo tutto il dovere, il diritto di dire che queste decisioni non rispondono alle esigenze di giustizia della società civile, perché noi dobbiamo tutelare i valori sui quali si fonda la civiltà, cioè il diritto della persona di vivere, di svolgere la propria vita, e purtroppo questo oggi in Italia non è assicurato. Si muore proprio perché ci sono comportamenti criminali. Il comportamento di questo ragazzo è veramente un comportamento criminale, cioè è stata distrutta una famiglia e le misure che vengono prese indicano l'inefficienza delle nostre istituzioni e forse anche la mancanza di volontà di combattere adeguatamente questo problema, cioè si preferisce tutelare il colpevole ancora e mettere allo sbaraglio la persona che svolge normalmente la propria vita, insomma le persone, in questo caso vittime innocenti, una famigliola che non è stata sterminata. A questo lei è accettabile? è accettabile questo comportamento delle istituzioni? Cioè, tre volte, come ha detto lei, si è tirata la patente, ancora questo cammina. Sì, infatti, questa è la cosa che più fa scalpore. Cioè, è la terza volta, che due volte è stata ritirata temporaneamente, una volta per 15 giorni, una volta per 6 mesi, poi gli è stata ovviamente ridata, e alla terza volta è successo questo. Avvocato Delaini, tra l'altro, quanto rischia il suo assistito? Cioè, non è un problema di pena. Non è un problema di pena, perché la pena nel caso di specie è da 3 a 15 anni. Da 3 a 15 anni. Non è un problema di pena, è un problema quello che dice la signora, che io posso anche capire quello che dice e comprendere, e per certi versi posso anche condividere. È un problema allora di decidere che se uno provoca una strage o provoca più morti, essendo il tizio al volante, eccetera, non può avere la libertà, non lo so. Però nel nostro sistema la libertà... cioè l'ordine di cattura obbligatorio, il sistema di dire che uno deve rimanere in carcere, c'era una volta per determinati reati, ma è stato tolto perché hanno detto che il giudice deve valutare caso per sì, caso. Da 3 a 15 anni giovane, per la rapina a mano armata non si poteva uscire, c'era l'ordine di cattura obbligatorio, dovevi stare dentro fino al processo. Mi perdoni, da 3 a 15 anni per lo so che è brutto, insomma, parlando in questi termini, ma per ogni persona morta oppure no, al massimo, cioè potrebbe prendere 3 anni per una famiglia sterminata. No, 3 anni, il minimo è 3. Beh, sì, potrebbe da prendere 3 a 15. E potrebbe prendere anche 3, insomma. No. Tre non prenderà mai, perché c'è l'aumento per ogni vittima, e okay, poi è un'aggravante specifica e quindi speciale, e quindi non si può arrivare, penso, a 3. Comunque la sanzione è da 3 a 15 anni. Da 3 a 15 anni. Abbiamo detto avviso, non è un problema di pena, la pena è altissima. È un problema di dire se chi rimane coinvolto in questi sinistri deve andare in carcere e restarsi. No. Non è una norma prevista nel nostro codice, nemmeno per i reati più gravi. Come infatti non è nel caso del suo assistito, che, ripeto, non è libero, è agli arresti domiciliari, è a casa. Da 3 a 15 anni, pena altissima, dice lei. Giordano Biserni, quante volte abbiamo fatto questo discorso? Si sta discutendo al Senato la revisione del codice della strada. Qui abbiamo l'avvocato che a norma di codice, a norma di difesa, dice il nostro assistito. La Giuseppa Cassaniti Mastroianni che dice: e noi siamo la società civile, che siamo stanchi di queste decisioni, come la risolviamo questa questione, Biserni? Ma intanto sul discorso del pericolo di reiterazione non mi tranquillizza per niente il ragionamento dell'avvocato che sostiene che qui è stato messo agli arresti domiciliari perché poi non ha la patente. Anche Stefano Lucidi non aveva la patente e ha ammazzato due persone senza patente tranquillamente, se ricordate. Chi è Stefano Lucidi? Ce lo ricordi? Di Roma, quindi, sì, di Roma. Qui il problema è che intanto, vabbè, le pene ma non vengono mai applicate. Io vorrei che venisse rifatta una trasmissione per vedere poi alla sentenza cosa accade per questo fatto, perché in questi giorni per un incidente identico, è vero che era accaduto prima dell'innovazione di questo del codice penale che prevede le pene, come dice l'avvocato, da 3 a 10 anni fino a 15 quando c'è un plurimo mortale, però hanno dato qualche cosa come 22-23 mesi per 3 morti qui sulla A14 avvenuti 4 anni fa. Quindi io andrei molto calmo. Qui il problema serio, Mina, è questo. C'è comunque in atto uno strano movimento che mi preoccupa, quello della banalizzazione dell'alcol. Cioè, qui per mesi, e questo mi preoccupa perché intanto gli incidenti del fine settimana nel 2010 stanno tornando ad aumentare, e questo è già un elemento preoccupante, soprattutto di notte. Di notte soprattutto abbiamo un aumento del 24-25% degli incidenti mortali. Ci dobbiamo domandare perché. Noi abbiamo la sensazione che si stia abbassando la guardia. Noi abbiamo la sensazione che qualcuno sta tentando di banalizzare, parlo del mondo della politica, parlo di ex ministri che hanno indicato come, vogliamo dirla chiara... Con chi ce l'ha? Diciamola chiara, allora, quando ci sono i ministri che dicono che le campagne anti-alcol sono un'autentica cazzata, ecco, poi i risultati li andiamo a raccattare. Adesso questo dobbiamo spiegarlo a queste famiglie, a queste vittime, a queste persone. Siamo tutti a rischio sulla strada, perché la strada è estremamente democratica, sa Milan, la strada sa colpire trasversalmente, non guarda in faccia a nessuno. Purtroppo è un posto nel quale un esagerato, per non definirlo in modo diverso, reiterato, un killer seriale della strada, parlo di quelli che colpiscono più volte, può emettere una sentenza di condanna a morte immediatamente eseguita sul posto a carico di un innocente inappellabile. Questo è avvenuto con queste tre persone che in tre avevano meno di 55 anni. Allora, se questo è uno scherzo, vogliamo parlarne. Io ce l'ho molto di più con la politica che difende troppo la vendita dell'alcol, difende, protegge troppo il sistema di diffusione degli alcolici e non si preoccupa, come dovrebbe fare uno Stato serio, della sicurezza con la S maiuscola, quella globale, compresa quella stradale. Allora, ripartiamo da qui, ci fermiamo per le informazioni sul traffico, 800 24 00 24, state anche molto chiamando ovviamente, state anche votando, c'è da dire che la maggior parte di voi, l'81%, dice sì, ci vorrebbero pene più aspre, pene più dure per chi guida in maniera imprudente, l'alcol è solo uno degli esempi. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Ci vogliono pene più dure per chi guida in maniera irresponsabile? Vi chiediamo, votate su radio24.it. Allora, due ascoltatori rapidi, mi raccomando, come siete sempre. Nicola da Napoli, buongiorno. Buongiorno Milan. Che dica? Voglio solo premettere che non sono contrario alle pene forse più severe, però voglio solo dire questo e non mi fraintenda. Cioè, trovo assurda la pena applicata dal giudice a questo giovane. Non è una pena, siamo... No, ma vabbè, diciamo che è una misura cautelare. Sì, no? Ecco. Però, diciamo, una pena, nel senso, ecco, ho sbagliato nel termine. Sì, sì. Però non ha senso, perché se noi, ognuno che produce questo, pensiamo di toglierlo dalla strada perché possa nuocere, secondo me è una cosa assurda. L'unica cosa che io posso pensare è che un giudice può mandare questi soggetti che hanno la propensione all'assunzione di alcol o sostanze psicotrope cioè andare in terapia, oppure far capire a queste persone che comunque attraverso la loro sconsideratezza possono provocare, cioè fare dei corsi, qualcosa, delle terapie, far capire, perché uno toglie questo ragazzo per diversi mesi finché poi dopo bisogna metterlo per forza per strada, perché decorrono anche i termini della misura cautelare. Non ha la patente, questo? però ma certo potrebbe rifarlo. No, ma infatti molti ci dicono: ma la reiterazione del reato, ma non serve la patente per guidare una macchina, si può salire in macchina e guidare anche se uno non ha la patente finché non viene fermato. Claudio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. No, niente, io semplicemente vorrei chiedere a questo avvocato che ha detto che la pena è altissima, se avessero sterminato la sua famiglia avrebbe detto la stessa cosa. Guardi, questa no, Claudio, me l'aspettavo, e avvocato, io volevo andare un attimo da Cassaniti Mastroieni, ma avvocato, prima risponda a questo, perché puoi immaginare i messaggi che dicono: ah, ma lei è così tranquillo, non è capitato a lei, non è capitato alla sua famiglia, fortunatamente, insomma, non deve capitare a nessuno. Ma è la classica obiezione che si fa: lei fa il suo lavoro e quindi fa il lavoro d'avvocato, tutti abbiamo diritto a un avvocato. Però certo, insomma, capisce, no, che la pancia del paese reagisca anche così alle... Ma la pena è molto alta, da 3-15 anni. La pena è molto alta. Ma mi dica allora, visto che tre anni non... conto cosa vuol dire da 3-15 anni. Ecco, però, visto che però 3 anni non li avrà mai, ha detto, perché sono poco. Quant'è secondo lei, insomma, adesso non le voglio fare... Non posso dire, bisogna vedere il momento della valutazione, non posso dire adesso. Però essendo incensurato, poi ci saranno magari gli sconti di pena, non so. Il sistema dell'abbreviato, del patteggiamento, eccetera, è un sistema processuale approvato dal Parlamento. Sì, ma per carità, le leggi sono queste. Avvocati. C'è il sistema dell'abbreviato, del patteggiamento che consente delle riduzioni. Le leggi sono queste, per carità, e vengono applicate, mica le applica lei, le applica un giudice. Questo però è il tema appunto di cui si discute, insomma, non siamo troppo blandi, ma senza voler essere cattivi e duri, però... Scusi, se un giovane qualsiasi, non lasciamo stare questo, prendesse 5 anni e dovesse tornare dentro e farne almeno 2 prima di avere affidamento in prova al servizio sociale, che si applica sotto i 3 anni, non è sufficiente 5 anni, cosa deve fare? Uno deve ammazzarsi perché è successa una cosa... No, ho capito, però capisce, 2 anni, cioè voglio dire, con 2 volte il ritiro della patente, ha ucciso 3 persone in un incidente, nessuno allora, lo vuole... Perché la pena sia soddisfattiva per l'opinione pubblica, quanto dovrebbe essere? Ah, ma guardi, no, non è che inseguiamo l'opinione pubblica, se no ci sono anche gli imbecilli che tirano fuori la pena di morte, insomma, per carità, quello no. Ma voglio dire, non so, Cassaniti Mastroieni, risponda lei, forse la pena è anche, gli ascoltatori non lo sanno, la pena è anche di chi se la porta come lei, che credo veda sempre, incroci anche il pirata della strada che ha ucciso sua figlia Valeria nel 97. Sì, o no? Sì, sì. Se lo incrocia per strada, lo vede dove? Sì, a Catania? Lo vede, tra l'altro, cioè, nel nostro processo è rimasta l'ambiguità della persona alla guida, perché si può anche sostituire la persona alla guida dal momento che chi si dice di essere colpevole di un fatto non rischia nulla, né il carcere né paga una lira, perché tanto poi paga qualcosa l'assicurazione. Veramente mi addolora questo modo di ragionare così banale, così superficiale, che fa veramente vergogna alla nostra civiltà. Noi dobbiamo dobbiamo insistere per un cambiamento culturale ed etico, oltre che organizzativo. Alle cose bisogna dare il giusto nome e trattarle per il peso che hanno. Cioè la cosa più importante nella società, nella nostra società, proprio è il valore della persona e la relazione umana. Quando questa viene calpestata, le pene debbono essere severe. Però, non è possibile sentir dire all'avvocato che dopo, insomma, alla fine questa è una grande pena. Cioè c'è lo sconto di un terzo della pena. C'è la possibilità, fino ad ora i giudici hanno utilizzato la sospensione condizionale della pena, ma si rende conto lei cosa significa uccidere e far finta di niente? Ma scherziamo, però, ma come signora, si ragiona? Dico, signora, io sono Giuseppa, scandalizzata. Lei è scandalizzata, però signora Giuseppa, l'avvocato Olderaini pone una questione precisa e dice: mi dica lei, allora dite voi, quale dovrebbe essere una pena che soddisfi l'opinione pubblica? Sì, infatti noi facciamo il giorno 22 giugno un convegno su giustizia per le vittime tra resistenze e cambiamento, procedure, reato e pena. Ho invitato magistrati e professori ordinari di diritto civile, di diritto penale dell'università, perché dobbiamo mettere a confronto le situazioni attuali che ci sono, perché ci sono delle sentenze fatte con rigore, insomma ci sono dei giudici sensibili alle istanze di civiltà della nostra società e quindi hanno dato delle pene significative anche, cioè hanno valutato il reato con una in maniera più adeguata, diciamo, perché è indicata nella legge cosa deve fare il giudice deve valutare la gravità del reato, dice l'articolo 133 del codice penale, desumendola dalla gravità del danno. Uccidere una sterminare una famiglia, uccidere una persona è un danno grave, secondo lei è chiaro, gravissimo, certo. Dal grado della colpa, guidare senza poter avere il controllo della macchina, perché quelle sono le condizioni. Io vorrei sapere se questa è colpa grave o gravissima, dal comportamento del reo, eccetera. Considerati questi elementi e tenuto conto che la legge stabilisce un minimo e un massimo, io vorrei chiedere ai giudici come si sono permessi fino ad ora di partire sempre dal minimo nell'applicazione della pena. Adesso c'è un certo cambiamento, alcuni giudici sono partiti dal massimo e c'è stato il giudice Guido Salvini di Milano, del Tribunale di Milano, che ha detto e ha mandato a noi la sua sentenza dicendo: guardate che ho considerato colpa grave il difetto di percezione sociale, cioè la sottovalutazione della vita dell'altro sulla strada. Si impone il possesso di una maggiore cultura, dobbiamo rivedere i nostri parametri culturali ed etici, o noi diamo posta ai valori o altrimenti la strage sulla strada continuerà e noi sosterremo i delinquenti, perché dobbiamo sempre dire giù le mani da Caino, senza aggiungere facciamo in modo che Caino non uccida Abele. E se vanno in carcere hanno un po' di tempo per riflettere sul male compiuto, non cominciamo a dire ah, quello deve stare in carcere perché che cosa ha fatto, ha messo sotto terra per sempre delle persone, vergogna. Allora, ci fermiamo qui. Devo dire che tra tutte le critiche che vengono imputate poi all'avvocato Olderaini, su questo l'avvocato Olderaini ha ragione, dire c'è la legge, cioè non è che la faccio io la legge, io faccio l'avvocato, io difendo delle persone, la legge la fanno il Parlamento e la applicano i giudici. Questo è, e questo è un dato di fatto, insomma, anche a tutti quelli che accusano l'avvocato Olderaini di difendere un assistito, una cosa che in Italia, viva Dio, è garantita dalla Costituzione. Allora ci fermiamo. Grazie a tutti, Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, dalla linea Oscar Giannino, ancora la Grecia in primo piano, che succede in Grecia? Noi ci sentiamo, Bianco o Nero, e radio24.it domattina.